vidi il Signore ritto sopra l'altare. Egli disse: colpisci il capitello e crollino gli architravi e fendili sopra la testa di tutti loro. Quanti tra loro rimangono indietro con spada truciderò. Non fuggirà tra loro un sol fuggitivo, né scamperà tra loro un solo scampato. Se si apriranno un varco nello Sheol, di laggiù la mia mano li afferrerà. Se saliranno al cielo, di lassù li tirerò giù. Se si nasconderanno sulla vetta del Carmelo, di là li cercherò e li prenderò. Se si rinchiuderanno davanti ai miei occhi sul fondo del mare, fin là comanderò al serpente e li morderà. Se andranno tra i catturati in faccia ai loro nemici, fin là comanderò alla spada e li truciderà. Porrò i miei occhi su di loro per la sventura e non per la prosperità. Il Signore Dio delle schiere, è Lui che tocca la terra e si squaglia. Fanno lutto tutti gli abitanti in essa, e salirà come il Nilo tutta quanta, e si risucchierà come il Nilo d'Egitto. È Lui che costruisce nei cieli le sue scalee, e sulla terra la sua volta ha fondato. È Lui che chiama le acque del mare e le riversa sulla faccia della terra. Signore è il suo nome. Non siete voi per me come gli etiopi, figli di Israele, oracolo del Signore. Non ho forse fatto salire Israele dalla terra d'Egitto, i filistei da Caftor e gli aramei da Kir? Ecco, gli occhi del Signore Dio sopra il regno peccatore. Lo estirperò via dalla faccia del mondo, ma non del tutto estirperò la casa di Giacobbe. Oracolo del Signore. Poiché ecco, proprio io sto per dare un comando, e scuoterò in tutte le genti la casa di Israele, così come si scuote con il vaglio, e non cadrà un ciottolino a terra. Per la spada morranno tutti i peccatori del mio popolo, essi che dicono: non farai avvicinare né farai arrivare in mezzo a noi la sventura. In quel giorno rimetterò in piedi le capanne cadenti di Davide, murerò le loro brecce, ne rimetterò in piedi le rovine, le edificherò come nei giorni antichi, affinché ereditino il residuo di Edom e tutte le genti sulle quali è stato proclamato il mio nome. Oracolo del Signore che sta per far questo. Ecco, giorni stanno arrivando, oracolo del Signore, che l'aratore raggiungerà il mietitore e il pigiatore di grappoli lo spargitore della semente. I monti stilleranno mosto e tutti i colli si liquefaranno. Farò tornare gli esuli del mio popolo Israele. Edificheranno città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigneti e ne berranno vino. Coltiveranno frutteti e ne mangeranno il prodotto. Li pianterò sopra il loro territorio e non saranno più sradicati dal suolo che io ho donato loro, ha detto il Signore, tuo Dio.